Roma batte 11 così non l'ho mai visto, vede veramente. Poi su questo lui aveva anche il suo computer, praticamente guarda su quell'apparato là in UHF chi è il numero, lo mette nel computer, sa già dov'è, chi è che non è tutto quanto, sa tutto quanto. Bello veramente. Ha molti apparati grandi veramente. Vabbè, uno c'è la passione, lui è OM, quindi avanti già. Gianni, ecco, dice di prenderlo, perché io vado presto, Manuè, perché se vado tardi se ne fottono, pare che c'è il miele. Quando c'ho queste offerte belle, vedo mai niente, mangiare un ghisolo, io sono uno dei primi. Guarda, quando c'era questa circolare da banco, cazzo, esiste il nome della biglia, non mi fruttini, ed era, mi sembra, un terzo o il quarto che sono entrato lì dentro, non tutti sono entrati però per la stessa cosa, beh, c'erano soltanto 4 seghe circolari da banco, solo 4. Io l'ho presa, poi sono salita al produttore a casa, sono sceso di nuovo e non ce l'ho più. Non mi ricordo se era 119 euro a fare del genere. E insomma, poi quella marca, quella verde, quel tipo tedesca, non so se è tedesca la marca, non sono prodotti buoni, è verità. Io questo trapano che voglio prendere domani è molto superiore a quello che aveva mio nipote, e quindi ragione per cui mi piace molto di più. Quello che ho comprato a Brico mi avevo pagato quasi 60 euro, ma non è a questi livelli qua. Guarda che costano 19 euro, una cazzata. Te lo compro io, cico mi. Come vuoi. Oh yeah. Gianni, sei entrato. Oh yeah. Io ho fatto un bel viaggetto, dai. Sono andato anche da mio figlio, con Stefano, a Posada. Siamo andati al chiosco. Ma ci ho prendendo ogni banino, prima caffè, poi quelle specie di patatine, quello cos'era, non mi ricordo, e poi un bel panino con i polpi. Ma io prendi, se vai prendi materassino, ma io pensavo quei panini normali, era un materassino doppio lungo, il mio panino, e Stefano, la pasta di rifare, doppio rum, mi ti faccio squillare un telefono. Domani non assaggiarmi alle 4:30 che lascio il dado, mi guardo la televisione, qualche film, alle 5 me ne alzo e alle 7 sto già uscendo, sempre così. Manuè, non sono abituato, mi piace uscire presto, faccio un giro e poi alle 7:30 sono già all'orito, tanto che rampe a lutto ti piace un po' grurito. Ma non ho capito perché aumento qua il volume e mi innesca. Perché mi innesca? Ecco, no. Beh, cosa ne posso fare io? Il Turner, yes. No, quello che ho preso, quello non l'ho mai usato, mai. L'ho messo ed è con la portante fissa. Devo invertire le saldature e non l'ho fatto. Una volta che va bene questo, questo l'ho fatto la prima volta, la prima cosa che ho fatto, subito quando mi è arrivato, l'ho fatto adatto a portarne. Va bene. C'ho lo spinotto a 4 che a L, ti va bene lo stesso? Sai cos'è una L? C'è la curva, no? Non lo posso drizzare se non si fascia, ce l'ho a curva. E allora, ce l'ho qua in mano. Questo va bene per il baracchino che c'è l'attacco del Mikey a fianco, capito? A te fin già non rispondi mai, eh? Non capisco. Come facciamo a rispondere? Parti da due parti, sono il telefono con mio figlio. No, mi ha detto qua, non c'è problema, c'è anche qua. Quindi ci vado qua direttamente, lo prendo, mi fate stare a spingirlo, a farlo, qua, là, bomba, invece lo prendo giù per non l'ora. Ho ok, ma a te te lo prendo già? Sì, sì, a me sì. Ok, allora prendo tre domani, due a me e una a te. Parla molti forti. Avanti, cingoma. No, io c'ho un bel attrezzatura, guarda, se vedi Emanuele qua, la roba che ho, non vendo mai niente io. Io infatti a mio figlio l'ho detto, il giorno che non riesco più a fare niente, le porte mie mi abbandonano, ti regalo tutto a te, se lo smaldito. No, a chi non mangio mi diamo un tiro io, mi diamo la roba che fai tu. Avanti già. Aspetta che mi sono incastrato. Allora, ma mi stavo incoricando, ho preso anche il tiro di e come stai incoricando? Io sono seduto sul letto. La televisione c'era le spalle perché c'era dietro. E davanti c'è tutta la mia stanzoncina. Cos'era questa donna che stava parlando dietro? La televisione. Intervista. Pubblicità. Intervista di Valencia Cortana? No, boh, non lo so, non lo so, non lo so. Mi sono girato. Allora, ma lui, lui sono Spinotto qua. Cosa vuol dire? Questo è AL, c'è la gomma, cosa vuol dire? A me va bene per l'altro baracchino, ne ho due, infatti così uno ha attaccato altro microfono e uno ce l'ho libero. Bene, questo a curva potrebbe andare bene, sì, il baracchino sto usando io con il microfono col carne, perché in quella posizione che ce l'ho, fa la curva verso destra. A me non mi piacciono quelli curvati. Eia. Sì, perché è brutto, perché per prepararlo con i cavi e saldarmi è un casino. L'ho smontato uno stasera, ma che mi faceva problemi, andava problemi, c'entrava la portata, diceva, scusate, voi la portate che andavo cando per ieri, Luca, lì, e mi diceva, scusate, ma il microfono che sta facendo male, adesso me ne vado ad un altro canale, ho preso, l'ho smontato, fatto di essere saldato e adesso sembra che vada bene. Sì, ma io infatti quando l'ho fatto per il lato baracchino praticamente e poi l'ho messo in mezzo avanti intorno per non fare contatto con metallo, capito? Io se fusano, se no mi devo comprare un microfono amplificato da fare. Se ce l'ha fusano. Si chiama, non mi dice che ci hanno portato in giamma, mamma mia. Stavo giocando. Stavo cercando una mia freccetta, nessuno mi la vuole dare, ma poi quando mi la domanda la bella cosa mi trovo adesso. Franco, ce n'è un bel microfono, ma non l'hai tenuta. Ma cosa sei trovati? No, io adesso sto usando cosa, come si chiama? Master Plus, nel gara, sì sì, da base, da base. Sto parlando da voce bassa a bassa per non disturbare anche. Ma io se l'altro per appena guarda, con l'eco lo fastidio. Poi come fanno a capirmi se tutti mi dicono che è chiara questa voce? Non la capisci? Ma così è come ce l'hai già. Così c'è. Quasi niente. È così che io la tengo. Forse poco fa, senza accorgermi, mi ha mossa col dito, senza voler. Era un bel forte poco fa, io ti giuro non ti capivo. Perché c'avevo la modulazione al massimo, capito? Se te l'ho fatto ripetere è perché non capivo Pizzaro. Poi paia, che lo so anche io. No, no, è l'età. Io l'età che... Sì, domani mi compare già addormenta per la bocconare Recci. Ti faccio bene a casa, ti faccio quell'appare che si fa col fuoco, si mette il fuoco e questa spirale si mette nell'orecchio e ti esce tutto il cielo. Ha scoppato la mia poesia. Infatti, Manuel. No, va bene, è per la chiave. È buona, dai, Emanuele, 35, perfetto. Certo, se è un microfono normale va anche troppo bene. Sembra amplificato. Cosa vuoi di più? Io penso il mic normale adesso. Poi. Dove siete? così, ma lo è. E mai che normale ho messo? Aspetta. Però con l'ecco mi innesca, se con questo microfono. Ora. Com'è? Com'è? Aspetta, posso aumentare? Ora. Sì. Ho passato. 1, 2, 3. Anch'io, aspetta un attimo, se non ho messo già manuale. Ecco. Adesso ho abbassato. Ma questo è il mic normale sempre, il suo originale. Sì, ma con l'eco. Guarda che mi posso qui tanto. Mi metto con le cuffie e mi sento anche in cuffia, è proprio per siare, raga. Siccome le cuffie mi stanno facendo gli orecchioni, allora ho messo il mic normale e tutto verificato. Sì, ma a parte che qualche mascherina per il coronavirus me la fede già gli orecchioni, più con le cuffie, buonanotte. È vero, me. C'è tanto di galluna. E poi tra l'altro lì dove l'ho comprata, che ce l'ho qua vicino a me, che oggi l'ho usato, il saldatore a stagno filo continuo, e io ne ho tre addirittura, una pistola, ho comprato un'altra tipo a penna e più questo qua tra dito, che come l'ho visto mi è piaciuto, l'ho comprato subito. Sì, in effetti. Comunque Manuè, quello che mi avevi dato tu del Alberichi, ovvero quello AE 8000, la manopola dei canali praticamente è mezzo sverniciata. Comunque io quelli domani la tolgo, le do un colpo di spray nero e così si torna normale. Perché poi era troppo schiacciata in dentro, infatti come giravi toccava, sentiva era un po' frenata, l'ho messo perfetto adesso. Sì, domani c'era, ho posizionato, e io ma cosa mio? No, ma io non ci accendevo, mi manuè, cavolo. Boh, adesso è staccato dopo, perché quando me l'ho preso, l'ho acceso, già si è accesa la luce, poi si sarà staccato dopo. E certo, e beh, hai provato, funziona allora. Sì, ce l'ho qua, mi soffro. Si è putto una cavola, puro un gioco. E me l'ha fatto. Gianni, ci rientra. So. Eia, cos'è Manuè? È K che è originale, è sua. Eia, se c'ha anche lo spinotto suo, ci ha attaccato. Ah, lo spinotto attaccato. Avanti già. E che ce l'ha per questo? Io ho un microfono manuale, di quelli proprio da battaglia, so. Vendono, comunque li vendono, ecco, stavo anche stava a 70 euro prima, adesso costa a stare quando qui l'ha modificato, il rumore hanno dal microfono, 40 euro e 51 costa, 2 euro 19 pure 96 iscritto, 60 euro. Microfono Mazzon, casa e cucina. RD 104 e comunque amplificato 4 pin, GB, 4 pin, cioè? Ma sai che adesso è 4 pin? Cosa? Lo spinotto a 4 pin, 4 pin. Comunque è carino come microfono, lo vedo. C'è, te lo fa vedere in tre parti, te lo fa vedere, tre posizioni. Anyway, decidere un mezzo. Già si aveva telefonato un'amica e mi ha detto, ho comprato un telefono nuovo, non mi piace, a me voglio comprare un altro, se lo compri. Vabbè, l'ammiro, senti, so anche un computer piccolino, avanti a me pure il computer, un'amica mia, un'amica che non abita a Sassari però, domani scendo da lì e mi piglio tutto. No, il telefono è nuovo, nuovo nella scatola, se l'ha appena comprato oggi, non mi piace. E il computer è... lo stanno la fesseria, cioè io ho anche un acero, quelli grossi, grandi, però ho visto, ha capito, cioè, vabbè. E questo piccolino è abbastanza carino, ma è nuovo, me lo danno una cazzata, va bene. Non so se sono 10 pollici o 10 pollicine, boh. Me lo sta dando 50 euro, a voglia, poi se capita di rifilarlo, lo rifilo a 100 euro. Lento. Io già so la DSL poi a casa che è veloce. Ma ti dico il mio che è vecchiotto, quello Vistas, l'Acer, è un tranquillo e veloce. Ecco già risolto. Uiaia, Gianni, e allora, è carino, la nonna sta facendo. E con il cartone vicino a me, ho guardato il microfono, mi ho messo il microfono amplificato dal palo, secondo come va quello che ho. Sì, ma Amazon, su carta di credito mi sembra, eh? No, non sono su Amazon, vabbè, vabbè. Ma a me già, sinceramente, mi piace vedere, toccare e comprare. A che ora te lo porto sul microfono? 7:15 di domani mattina, vabbè. No, dai. Quando ho finito le mie commissioni te lo porto, dai. Ok, d'accordo, ciao Manuè. Buon volentì. E a domani, ciao Bruno. Avanti, ciao. Ciao Manuè, avanti Eugenio. Sta facendo un casino di nuovo. Eugenio, abbassa le voci. Buonasera signori, buonasera. E allora io finisco. Questo, sto andando a lavorare ragazzi, io sto andando a lavorare, cambio! E però tu non passano. Ma perché state parlando di questa voce bassa? Perché mi disturbo nel palazzo, non mi posso mettere la voce come se così, così non incanto, furgone. E lo vedo che ti pone a voi. Tu mi abbassi, ti saluti Eugenio, Eugenio, Eugenio. Ok, ciao Eugenio, mi hai sentito. Buonasera, buonasera, buonasera a tutti. Capo, ragazzi, dove sei Eugenio? Porto Torres, sto salendo dal porto. Capo, capo, dai, sta arrivando bene, dai. Sempre come si sa, già lo sai, io non tocco niente, non tocco niente. Sempre normale, paracchino, microfono originale e niente. Quello che apparecchio è Eugenio? La Midland. Esce bene, sì. Il mio mi prende che c'è che c'è la radio pubblica. Lo devo piantare in macchina forse. Ma lo piatto solo sporadicamente. Lo metto così volante. Ma chi sei? Chi sei? Chi sei? Io e Tomino, adesso se ne è andato Cicco, c'era anche Cicco. Forse lui è Cicco, non lo copiamo perché c'era un antenino piccolo. No, non lo conosce proprio. Chi c'era Cicco? Chi è Cicco? Cinco. Cinco, no, non l'hai mai sentito. È un vecchio GB, sì. Ah, ho capito. Ma di che non lo entra? Perché non l'ha mai sentito? Perché non c'è antenna, c'è un antennino, capito? Ah, ho capito, ho capito. Andale. Poi quando se la mette lo sentirai, perché dice, tra un po' già se la mette l'antenna grande. Va bene, ragazzi. Mi faccio una gara, mamma. Ciao, bello, ciao, buon lavoro. Ciao G, sono a Trabacco. Ma siamo andati, siamo andati a fare il piatto. Oh già, ma tu hai detto ciao al foro, ma allora non ce ne andate un giro. Che bobo. Allora, ho detto che la rega annaggi, ma lo so ancora rifatto. Ehi, già ne ti ho salutato, io pensavo che te ne stavi andando un po'. E già non è andato così, via. Ma è vero, so quello che ti faccio sempre entrare io, vedete. Dove siamo? Oasi. Stavo andando nell'oasi, sì. Ma adesso sono, mi sono fatto un giro in piazza. Capito? Stavo andando in nell'oasi, in nell'oasi. Ma guardate le signorine, no? Guarda, non c'è un'anima in giro. Non c'è nessuno. No, già, io faccio fuori tipo questo pezzo di cosa lì. 4-5 marce e poi la nonna che doveva essere molto presto perché voleva essere uno dei primi al rito. Beh, ci sentiamo domani già. Ciao Genio, state bene, buon proseguo. Ma sai che ti fanno aprire il cancello domani. ciao, allora vuoi te le prendo già domani mattina? Sì, una. L'altro se lo prende Manuela, dai. Metto che ce l'hanno vicino a casa. Ok, d'accordo. Allora proprio per domani, dai. Ciao, buonanotte. Ciao. Ciao G, buonanotte, ciao. Ciao G, mi pare che andate a vedere. Un silugio.